in primo piano. È l'annuncio di Berlusconi che prende le prime pagine di alcuni giornali. Berlusconi, l'anno delle riforme, per il Corriere della Sera. Il Messaggero intervista Tremonti, interessante, così è stata spiazzata la sinistra, e parla anche di riforma fiscale, ora vedremo. La Stampa, riformeremo il fisco. Il Giornale, giù le tasse, vediamo chi ci sta. Il balletto delle tasse per Libero, perché c'è questo giallo, insomma, l'annuncio appunto di, secondo Libero, di un taglio da parte di Berlusconi delle tasse, poi il portavoce Bonaiuti che è intervenuto a correggere. Per il Sole 24 Ore, la ripresa economica, Startup Italia, il paese ricomincia. È un'inchiesta del Sole 24 Ore sulle piccole e grandi imprese, poi vedremo. C'è chi fa una scelta come Repubblica un po' diversa, molto diversa. Le vittime della mala sanità, abbiamo sentito, morti due neonati, 30 indagati a Foggia e altri casi a Pisa e Bari. Insomma, il ritorno di Berlusconi, che ieri ha telefonato ad alcuni parlamentari europei riuniti a casa di Vito Bonsignore, leggo dal Corriere della Sera, ha detto: il 2010 sarà l'anno delle riforme, cominceremo con la giustizia, poi la scuola e soprattutto con un programma di riforma fiscale. Tra l'altro, appunto, c'è questo giallo che anche il Corriere evidenzia, un'incomprensione sul contenuto della riforma fiscale, sui tempi di attuazione, tanto che il portavoce Bonaiuti è intervenuto precisando che una riforma fiscale si può impostare ma non prevede certamente, né Berlusconi l'ha mai detto, una riduzione così ravvicinata delle tasse. Vorrei andare per l'appunto subito al Messaggero che, come detto, con Carlo Fusi intervista il ministro dell'economia Tremonti. Tremonti, così è stata spiazzata la sinistra, questa è l'apertura di prima pagina. Le politiche sociali del governo hanno prosciugato l'anti-berlusconismo, dice Tremonti. Sostanzialmente gran parte dell'intervista è proprio dedicata a questa, a Berlusconi, l'anti-berlusconismo, le politiche governative che Tremonti definisce così. Non so se è di destra o di sinistra, ma so che abbiamo fatto una politica opposta alle aspettative caricaturali della sinistra. Avendo avuto la fortuna di aver previsto in anticipo la crisi, la priorità è andata alla conservazione dello Stato sociale, che significa garanzia senza tagli della spesa sociale, pur in un contesto di crisi. Insomma, con queste politiche, dice Tremonti, la sinistra si è trovata spiazzata, soprattutto quella che ha cavalcato per anni l'anti-berlusconismo, che si è sviluppato, dice Tremonti, come un'opposizione a un modello politico che la sinistra rappresentava in termini sistematicamente negativi. Poi Tremonti dice, le do una notizia, nel 2013 il successore di Silvio Berlusconi sarà Berlusconi Silvio. Riguardo a poi al tema centrale, in realtà è solo l'ultima domanda, la riforma del fisco per il 2010, Tremonti è abbastanza prudente, dice una riforma fiscale non è una manovra elettorale, quindi non è che punta a fare questo discorso perché ci sono le regionali, dice Tremonti. Il discorso che abbiamo fatto è che abbiamo un sistema fiscale disegnato negli anni 60, messo in legge negli anni 70 e poi per 40 anni rattoppato, insomma è diventato un labirinto e il fisco italiano non riflette più la realtà dell'Italia. Riguardo però alla riforma ha detto abbiamo una serie di vincoli a partire dal debito pubblico, non possiamo fare errori, dobbiamo tra l'altro combinare la riforma fiscale col federalismo fiscale, un meccanismo ad alta complessità, ecco perché servono insieme a determinazione politica e ottimismo anche una grande prudenza e un grande consenso. E qui insomma c'è come dire, appunto, un frenamano un pochino tirato, come dire, sì, riforma possibile, ma grande prudenza e grande consenso. Sul Sole 24 Ore Marco Mobili, a fianco appunto all'annuncio dell'anno di riforme, a pagina 6 dice prospetta quella che è la strategia un po' del ministro Tremonti per rivedere il sistema fiscale che appunto non si sposa più con l'attuale modello competitivo del paese. Premiare la famiglia, il lavoro e l'ambiente, sfavorire le speculazioni finanziarie e il consumo ambientale. Questa è la ricetta bonus malus di fine 2009 del ministro Tremonti. Tra i bonus che non possono certamente più attendere, scrive Marco Mobili, c'è la rivisitazione degli strumenti che regolano la progressività del prelievo sulla famiglia, detrazioni e deduzioni, per esempio oggi sono ormai un ginepraio. Poi non si può più rimandare la questione sul quoziente familiare, vale a dire i benefici fiscali riconosciuti alle famiglie a monoreddito con soggetti a carico, che finiscono per essere annullati o impercettibili per il contribuente persona fisica. E poi in questo contesto il punto di partenza è sicuramente la riforma dell'IRPEF, tanto sulle aliquote quanto su una decisa semplificazione di oneri deducibili e detraibili. Questo per Marco Mobili, mentre sul giornale, che titola appunto "Giù le tasse, vediamo chi ci sta", in prima pagina Francesco Forte dice la sua ricetta, le tre priorità per la riforma fiscale sono l'IRAP in relazione al suo onere sul finanziamento, la tassazione personale del reddito e la trasformazione dell'imposta sulle rendite degli immobili in un'imposta a forfait del 20%. Insomma, si discute molto su quelle che sono proprio le strategie di riforma. Sulla questione del giù le tasse, no, non l'ha mai detto, ha detto di riforma fiscale, è lo stesso Libero, un giornale certo vicino, affine alle posizioni del governo, che titola così "Il valzer delle imposte con Giulio". In realtà lo sottolinea anche il Messaggero, che insomma questo è un po' il sogno di Berlusconi, la spinta di Berlusconi, fare un po' come Angela Merkel, puntare proprio a una riduzione delle tasse. D'altra parte c'è un Giulio Tremonti invece più prudente, dicendo c'è il debito pubblico, avete sentito anche al Messaggero, bisogna andare più prudenti. E infatti Fausto Carioti su Libero, nel suo commento "Il valzer delle imposte con Giulio", dice "menù non facile da cucinare". Infatti il portavoce Paolo Bonaiuto ha subito dovuto smentire che Berlusconi, assieme alla riforma fiscale, abbia annunciato una riduzione delle tasse, anche se, ripeto, il titolo per esempio del giornale in prima pagina è "Giù le tasse, vediamo chi ci sta". Comunque staremo a vedere come si evolverà questa vicenda. La vicenda invece, l'altra riforma, oltre a quella della scuola e del fisco annunciata, è quella della giustizia. E Repubblica, a pagina 5 con Liana Milella, fa un retroscena. Su che cosa? Sempre sul lodo, il famoso lodo, quello dice Repubblica, portare alla immunità le cariche dello Stato. Il lodo in formato costituzionale. Sarebbe pronta la nuova proposta, ormai non si sa quante siamo arrivate. La proposta, in questo caso, scrive Liana Milella, è dei senatori Quagliariello e Centaro, della quale cominciano a filtrare indiscrezioni, e sarebbe così. Sarà un lodo reiterabile, cioè Berlusconi o comunque tutte le alte cariche dello Stato ne potranno fruire subito in quanto alte cariche dello Stato, ma anche nel corso di legislatura e anche in una successiva legislatura, qualora dovessero occupare un'altra delle tre altre cariche dello Stato, Presidente della Repubblica, Senato e Camera, che saranno protette dal futuro scudo. E poi l'altra novità sarebbe che, a differenza del lodo Alfano, non è rinunciabile, cioè non, queste quattro alte cariche non vi potranno rinunciare, giusto il contrario di quello che prevedeva il lodo Alfano. Sarebbe questo il contenuto del lodo nuovo Quagliariello Centaro, per l'appunto, che il cui testo è pronto, approderà la prossima settimana, pare, al Senato, e scrive Repubblica sicuramente susciterà molte reazioni, molte polemiche nell'opposizione. La politica si anima anche per la vicenda ormai annosa del rapporto Fini-Berlusconi con il giornale che ogni giorno attacca. Pare che domani ci sia una riunione, così scrive almeno il giornale, acque agitate nel PDL, domani una riunione di Fini con, diciamo, gli ex DAN. Addirittura sentite sulla stampa, la stampa dice: il cavaliere ai suoi, Fini vuole più spazio, si dimetta e gli do il PDL. E scrive Amedeo La Mattina sulla stampa: prima di fissare un appuntamento tra Fini e Berlusconi, il premier aspetta di vedere cosa viene dalla riunione che la terza carica dello Stato ha fissato per domani con i suoi fedelissimi. Ecco qui che ci sarà una riunione appunto domani. E c'è chi già fa la conta dei parlamentari che si potrebbero staccare dal PDL. 50 deputati e 28 senatori. Così sottolinea anche il Riformista, il partito di Fini, questo è il titolo di apertura di prima pagina, decisivo il prossimo incontro. Ormai sarebbe vicina la resa dei conti, sempre in questi retroscena politici. Il caso Feltri sostanzialmente, partito tutto dagli attacchi del giornale. Che cosa vorrebbe Fini? Vorrebbe un riequilibrio interno nel PDL, vorrebbe un suo uomo molto vicino a Silvio Berlusconi all'interno del PDL, altrimenti il rischio è quello di dire facciamo un nuovo gruppo parlamentare, un nuovo partito, usciamo insomma dal PDL. Chissà se siamo davvero vicini così a questo scontro molto forte, ma certo tutti i giornali ne parlano, anche il Corriere della Sera. Berlusconi parla coi coordinatori del partito e dice Fini vuole il Popolo della Libertà, c'è già il posto di La Russa, prenda quello. Oppure gli ex DAN contro Feltri, basta, ora parli il Premier, altrimenti il rischio è la scissione. Insomma, i rapporti non segnano bel tempo, pare dai giornali. La politica poi si interroga molto anche sugli altri due temi che trovate sui giornali, sono le candidature alle regionali, vale a dire... Da una parte il Lazio, dove, come io spero, come molti italiani secondo me sperano, ci sarà il confronto tra Renata Polverini, sicura già scelta nel centrodestra e che oggi fa un'intervista al Sole 24 Ore, e dall'altra parte Emma Bonino, che si è autocandidata per il centrosinistra. Il PD ovviamente sta, come dire, valutando forse oggi la decisione finale, tanto che sia il Manifesto che l'Unità mettono in prima pagina questo tema, scelta radicale. Ci sono Bonino e Bersani, questo è il titolo sul Manifesto, e la sfida è per l'Unità, e le due facce in prima pagina sono quelle di Renata Polverini, che ripeto è sicura per il centrodestra, e punto Emma Bonino, come dire l'Unità spinge a dire forse con questa scelta editoriale scegliete Emma Bonino. Riguardo proprio al Lazio, come accennato, c'è Renata Polverini che fa un'intervista al Sole 24 Ore, Alina Palmerini parla delle priorità nel programma, saranno quelle dell'economia, della ripresa, delle imprese, del lavoro, d'altronde insomma il suo passato da sindacalista qui si vede. Parlerò non più di sanità ma di salute per quel che riguarda i cittadini. E riguardo a Emma Bonino, alla domanda sarà una sfida tra pro o contro Vaticano, dice no. Dice Renata Polverini, il Vaticano rivolgerà la sua attenzione su chi riterrà, ma voglio raccontarle che in tempi non sospetti tutti e due, cioè io e Emma Bonino, ci dicemmo che se fosse toccata a noi avremmo parlato di problemi concreti. Ripeto, a me piacerebbe davvero una sfida tra Renata Polverini e Emma Bonino. In primo piano. Startup Italia, il paese ricomincia. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, come detto concentrato un'inchiesta concentrata sulla ripresa, sulle piccole e grandi imprese, ricerca, innovazione, capacità di competere su scala globale. Insomma, questo è quello che il sistema Italia sta compiendo e questa è la sfida per la ripresa economica. Tra l'altro a pagina 3 il Sole 24 Ore racconta oggi la storia di Luigi Regali, piccolo imprenditore lombardo che a 60 anni ha deciso di ricomprare la storica fonderia di famiglia, che a Brescia è un'istituzione, l'ha riacquistata dal colosso del ramo Mittel e dal fondo Equinox. Una pazzia l'ha definita lo stesso imprenditore, una seconda vita, una sfida vera, una pazzia che mi ha riportato a svegliarmi alle 5, turni massacranti, eppure oggi mi sento ringiovanito. E tra l'altro partendo dal racconto che trovate in un'intera pagina appunto di questa storia imprenditoriale, c'è anche l'invito, insomma, il Sole 24 Ore di segnalare al Sole 24 Ore sul sito ilsole24ore.com le aziende che ce la fanno, i settori di eccellenza, insomma, perché evidentemente il quotidiano ora inizierà, diciamo, un percorso anche nel racconto delle storie d'eccellenza, delle aziende che ce la fanno, che credono nella ripresa, che credono nel rilancio. Voglio andare al tema, tra l'altro annuncio che insomma di economia del tema perché guadagniamo così poco si occuperà, per la precisione, Oscar Giannino alle 9. E tra l'altro su questo anche sul Corriere della Sera c'è proprio l'allarme di Raffaele Bonanni, leader della CISL, che sarà ospite di Oscar Giannino, tra gli altri. Che a pagina 2 del Corriere dice: i pensionati traditi da tutti i governi. Insomma, d'altronde il mese di gennaio è tradizionalmente quello più freddo, e non solo per il clima, per i pensionati, come evidenzia appunto oggi il Corriere della Sera. E Bonanni che dice: governi traditori, i governi, tutti i governi negli ultimi 15 anni hanno tradito i pensionati, soprattutto quelli con i redditi più bassi. Tema di cui si parlerà, pensioni non solo, salari, alle 9, Oscar Giannino. Voglio andare al tema del nostro sondaggio. Come detto, attorno a Natale il professor Sartori, Giovanni Sartori, ha fatto un intervento al quale sono suscitate, che ha suscitato poi un dibattito molto molto aspro, vivo, interessante, vibrante, sulla questione della integrazione degli islamici nelle società occidentali. Il punto di partenza è, dice Sartori, nella storia non conosco alcun caso in cui gli islamici si siano integrati in società non islamiche, a differenza di tutti gli altri, a differenza dei cinesi, dei giapponesi, degli indiani, per esempio. Questo perché l'Islam, sostiene Sartori, è un invasivo monoteismo teocratico che si sta infiammando. Oggi il professor Sartori ci ritorna perché appunto il suo editoriale ha suscitato molti dibattiti. Il pluralismo valorizza la diversità, no al multiculturalismo ideologico, di Giovanni Sartori, oggi in prima pagina del Corriere della Sera. È un articolo molto lungo, un commento molto lungo. Vado al nocciolo. Il nocciolo è questo, dice Sartori: qual è il vero Islam? Gli intellettuali musulmani accasati in Occidente si affannano quasi tutti a spiegare che non è quello propagandato dai fondamentalisti. Anch'io ovviamente ho letto il Corano, ma il fatto è che gli islamisti contrari al fondamentalismo hanno voce e peso soltanto con gli occidentali. Il diritto islamico viene stabilito dai dottori della legge, gli ulama. Sono loro a stabilire quali sono o non sono gli sviluppi conformi della dottrina coranica. E poi un altro punto centrale dell'intervento di oggi, i rimedi. I rimedi, dice, tutti si chiedono quali sono i rimedi, eppure sono ovvi. È stato il bombardamento del politicamente corretto che ce li ha fatti dimenticare o dichiarare superati. A suo tempo i tedeschi accolsero milioni di turchi come lavoratori ospiti. Noi avevamo e abbiamo i permessi di soggiorno a lunga scadenza. Tutto questo sono forse, diciamo, migliorabili, ma sono certo preferibili, conclude Sartori, alla creazione del cittadino contro cittadino che, una volta conseguita la massa critica necessaria, crea e vota il suo partito islamico che rivendica diritti islamici se così istruito nelle moschee. Non dico che avverrà, ma se il fondamentalismo si consolida, potrebbe avvenire. È un rischio che sarebbe stupido correre. Insomma, posizione vicino alla Oriana Fallaci, opposizione, quindi posizione molto intransigente, oppure posizione apprezzabile. Che ne pensate? Secondo voi è possibile l'integrazione degli islamici nelle società non islamiche? Questo è il nostro sondaggio di oggi. Dovete votare su radio24.it o il sole24ore.com. E c'è da dire che oggi questo dibattito si è molto animato nei giorni, anche Avvenire vi dedica l'editoriale tradizionale, uno dei tre editoriali tradizionali di pagina 2, a firma Giorgio Paolucci, noi e i nostri vicini di casa. E tra l'altro Avvenire mette proprio a pagina 3, in quella che è tradizionalmente l'approfondimento della pagina 3, proprio la storia, il fallimento per la verità di un quartiere in Olanda, ghetti nell'Olanda multiculturale, ecco dove è fallita l'integrazione, a Slotervat, periferia islamizzata di Amsterdam, dove, racconta Marina Corradi, che è andata a visitare questo quartiere popolare, sostanzialmente si è visto poco a poco l'esodo degli abitanti olandesi con il progressivo insediamento massiccio di stranieri. Non ci sono più bar, ma solo botteghe di kebab, e nei supermercati molte cassiere portano il velo. Questo è lo spaccato in periferia di Amsterdam che racconta Oggi Avvenire, per dire insomma com'è fallita qui l'integrazione. Trovate moltissimo anche sulla vicenda di Super Mario Balotelli, la polemica, giusto per arrivare allo sport. Ieri hanno vinto tutte le grandi, la grande delle grandi, vale a dire il Milan. Vabbè, questo è un mio commento personale, ma insomma, Mario Balotelli che ha detto? Ha detto, intervistato a fine partita, a proposito, tutte le volte che vengo qui a giocare a Verona mi insultano e questo pubblico mi fa schifo. Come dire, se avete sentito anche il nostro Gigi Garanzini, in apertura di GR24, il dibattito è: ha ragione, ha sbagliato, ha esagerato. Secondo il Corriere della Sera ha ragione, ci sono due pagine addirittura anche svincolate dallo sport, è diventata notizia a pagina credo 9 e 10 con l'intervista a Gad Lerner, interista, che dice assolutamente ragione e il sindaco di Verona ha sbagliato a reagire. Libero invece è dall'altra parte, dice no, questa volta proprio Mario Balotelli sbaglia a giocare col razzismo, è un gran campione, ma scrive Alessandro Dell'Orto, appena si è slacciato le scarpe e gli hanno offerto un microfono, il talento dell'Inter è scivolato, tradito dall'immaturità e dall'arroganza che lo stanno poco a poco condizionando e forse rovinando, e insomma ha sbagliato. Perseguitato sì da imbecilli, ma scrive Dell'Orto, quando viene fischiato e insultato non è per forza a causa del colore della pelle, ma perché è forte, perché mette paura. Questo è il tema dibattuto, annoso, da sempre. E vabbè, sicuramente questa uscita di Super Mario Balotelli rianimerà anche questo dibattito. Il pubblico di Verona, in questo caso del Chievo, mi fa schifo, ha detto Balotelli. Ci fermiamo qui. Allora, votate questo sondaggio. Secondo voi è possibile l'integrazione degli islamici nella società occidentali, nella società non islamiche? Su radio24.it, un po' in basso a destra, trovate bianco o nero, o il sole24ore.com. Ne parleremo più avanti. Ci sarà anche il professor Sartori, nostro ospite. E ora la linea GR24.